Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, il tema sostanzialmente. In antenna abbiamo anche un altro che riguarda la magistratura. Oggi un'importante intervista con Giovanni Minoli a Mix24, del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Voi direte cosa c'entra? Beh, insomma, ci sono degli elementi anche di carattere produttivo, però è ovvio che il tema principale di oggi si chiama Grecia e si chiama vittoria contro anche ogni previsione di Tsipras. Non che non fosse prevista la vittoria, ma probabilmente non in di questa entità. Ma al di là del commento politico, a me, se posso dire, poi partiamo subito con le altre notizie in breve e soprattutto partiamo dai mercati. Faccio solo notare che c'è questa rincorsa un po' stucchevole di molti politici italiani di qualunque schieramento, dal PD alla Lega, nel dire bene Tsipras. Allora attenzione, perché adesso improvvisamente sembra che Tsipras sia l'unico portatore di una verità nei confronti dell'Europa. Banalmente da anni in questo programma ricordiamo, devo dire che anche il Presidente del Consiglio Renzi, soprattutto prima di diventare Presidente del Consiglio, era d'accordo con questa linea, e cioè che l'Europa non possa essere solo austerità, che ci siamo beccati la seconda recessione unica area geografica al mondo per un eccesso di austerity, che il patto di stabilità è stato violato nel senso che è stato irrigidito contro la sua natura iniziale, che è diventato un patto di stupidità, che c'è un approccio ragionieristico all'idea europea, che la Germania ha delle grossissime responsabilità anche nel modo in cui ha gestito politicamente, non solo economicamente, la crisi, già dal tempo in cui ventilò l'ipotesi, era il 2011, che la Grecia potesse uscire dall'euro e quindi aprì il varco per tutta la speculazione su quali altri paesi sarebbero usciti: Portogallo, Irlanda, Spagna e poi l'Italia, lo spread e quant'altro. E anche oggi qualche chicca, che ormai è Weidmann, il presidente della Bundesbank, che a mio avviso è un po' Forrest Gump, cioè in maniera anche così goffa sta rischiando di creare più problemi che altro alla Germania, perché parla sempre anche quando nessuno gli ha chiesto un suo intervento e anche quando il suo intervento è irrilevante. Adesso lo ricorderemo. Però possiamo dire una cosa: questa rincorsa a Tsipras della classe politica italiana, oltre che stucchevole, a mio avviso è anche masochistica. Perché lo dico? Perché Tsipras farà tutte le... adesso analizzeremo nel dettaglio le proposte economiche di Tsipras, quello che ha detto in campagna elettorale e quant'altro. Però attenzione, perché la Grecia ha un'esposizione con vari paesi europei, ok? La Germania è esposta per 60 miliardi, cioè 60 miliardi di prestiti verso la Grecia, la Francia per 46, l'Italia per 40. Ora, non ci vuole un genio per capire che in percentuale siamo più esposti noi dei tedeschi: 60 miliardi per gli abitanti tedeschi e 40 miliardi per quelli italiani. Praticamente ogni italiano ha prestato circa 400 euro ai greci. Ora, la Grecia, la soluzione per la Grecia è stata, a nostro avviso, troppo umiliante negli anni passati, ma non dimentichiamoci le colpe dei greci, e cioè a 50 anni in pensione, l'evasione fiscale come regola, peggio che in Italia, abbiamo raccontato per anni, quando scoppiò la crisi greca, i privilegi di cui godeva il pubblico impiego, insomma era un'economia, e l'aver truccato i conti per l'ingresso nell'euro, quindi le colpe la Grecia le ha. Faccio notare a tutti quelli che sono così entusiasti, che adesso pensano che Tsipras sostanzialmente possa fare il lavoro sporco a livello europeo, che non si è avuto, che né Francia né Italia, e neanche Spagna, hanno avuto il coraggio di fare. Va bene, attenzione che a noi greci devono 40 miliardi, e esultare per, diciamo, un'eventuale rinegoziazione del debito greco va spiegato agli italiani che questo vuol dire anche una perdita per i soldi che abbiamo prestato ai greci. Questo lo dico per chiarezza, perché qua, se non ricordo male, era Achille Festa Campanile che diceva, o lui o Flaiano, vado a memoria, che gli italiani sono un popolo abituato a correre in soccorso dei vincitori. Notizie in breve. Allora, sì, era Flaiano. Bugia, solo in Italia c'è ancora recessione. No, guardi che se lei va a vedere le previsioni di crescita, com'è andata la crescita nel 2014 nell'area euro, e le previsioni, ma lo dicono tutti, cioè l'area, l'America è preoccupatissima, l'area più debole a livello geografico, che ancora non si è ripresa neanche lontanamente sui livelli del 2008, è l'area euro. Ma si riesce a fare un ragionamento non per tifoserie, cioè o pro Germania o pro Tsipras, e dire ci sono degli errori clamorosi commessi dalla gestione tedesca della vicenda greca, perché un conto è punire, un conto è umiliare, e la Germania è arrivata all'umiliazione nei confronti dei greci. Qualunque genitore conosce la differenza, l'abbiamo detto mille volte, tra punire qualcuno che ha sbagliato, il tuo figlio si è sbagliato, e dargli una punizione seria, e umiliare tuo figlio, che rischi di ottenere l'effetto contrario, rischi che questo non vada più a scuola, ok? Che scappi di casa. Allora, quello che sta succedendo, purtroppo fummo facili profeti nel 2012, se tu continui a umiliare la Grecia, prima o poi l'orgoglio greco avrà la meglio sul ragionamento di testa e vincerà qualcuno che torna a parlare di dignità, come fa Tsipras. Ecco, è successo. Non che siamo bravi noi, era abbastanza logico. Quando tu, usiamo sempre l'esempio del figlio, quando tu umili qualcuno, sto qua rischia di reagire in maniera opposta alle tue, al tuo obiettivo, ed è successo. Ma questo non basta, perché c'è questo Weidmann, e io lo chiamo questo Weidmann perché non me ne frega più nulla. Il presidente della Bundesbank, che è una delle banche centrali, la più importante dell'Unione Europea, perché la banca dell'area euro, che è la banca centrale tedesca, che continua a parlare anche oggi. Ma io mi chiedo perché Weidmann parla del rispetto dei trattati, nel senso che la Grecia ha degli accordi presi con la Troica, che è formata dalla Commissione Europea, dal Fondo Monetario e dalla Banca Centrale Europea. Ora, Weidmann ieri sera, a voto caldissimo, ha detto: la Grecia è attualmente sottoposta a un programma di aiuti, e naturalmente ciò significa che tale programma potrà proseguire solo se verranno mantenute le condizioni sottoscritte. Allora, gli aiuti, ma perché lo dice lui? Cioè, più sta zitto, visto il risultato del voto, meglio è in generale, perché ogni volta che Weidmann parla viene voglia di dare ragione a Tsipras, e soprattutto aumentano i consensi per Tsipras, cioè, perché l'impressione è che la politica dell'euro la faccia la Bundesbank, anche lo scontro con Draghi, ne abbiamo avuto una. Ma perché non parla il presidente della banca centrale portoghese o della banca centrale spagnola, il nostro Ignazio Visco? Nessuno si permetterebbe di dire, tanto non è compito loro, è compito della Troika. Allora sta zitto anche tu, Weidmann, no? Cioè, la dimostrazione che non basta essere giovani nella vita. Vabbè, non vado oltre, però insomma, dai. Vabbè, poi oggi Berlino, invece, per voce di Stefan Seibert, portavoce della cancelliera Merkel, ha detto: gli impegni vanno mantenuti, il governo tedesco offrirà al futuro governo greco la propria collaborazione. Berlino è contrario a un ulteriore taglio del debito pubblico greco. Schäuble, il falco ministro delle finanze tedesco, ha detto: non obblighiamo nessuno, ma gli impegni restano presi, sono validi, abbiamo sempre aiutato Atene con le migliori intenzioni. È un modo un po' diverso di parlare. Poi questo è il governo tedesco, il presidente della Bundesbank si occupi delle banche tedesche, si occupi di Deutsche Bank, delle casse di risparmio, ci racconti come hanno salvato le casse di risparmio tedesche, Commerzbank, Deutsche Bank, ci racconti queste cose qui, no? Se e come ha sistemato e come erano messi anche gli asset, i prestiti delle banche tedesche, su. Vabbè, altre notizie. Vabbè, è inutile ripetere che ha avuto il 36,34%, 149 seggi, per due seggi non riesce a governare da solo. Ha giurato di fronte al Presidente della Repubblica ellenica, Papoulias, per cui è, di fatto ha avuto l'incarico di formare il nuovo governo, ha fatto un giuramento solo politico e non religioso, ha stretto l'accordo di governo con il leader del Partito Nazionalista dei Greci Indipendenti, Anel. Sono due schieramenti agli antipodi, delle volte si dice che gli estremi si toccano, ma hanno un unico comune denominatore molto importante: il no all'austerità imposta dalla Troika. Le altre notizie: come va il petrolio? È stabile a 45 dollari al barile. Per quello che riguarda l'andamento delle valute, l'euro sul dollaro è 1,12, quindi sempre su livelli di debolezza, dopo anche la decisione di Mario Draghi di giovedì scorso, il via libera al quantitative easing. Ancora la borsa guadagna l'1% a Milano, guadagnano 0,70 a Parigi, l'1,35 a Francoforte, è invariata a Londra. Per quello che riguarda i titoli, UX più 4,30, TOZ più 3,90, Autogrill più 3,80, Fiat più 3,5 come ST Microelectronics. Il 2,80 lo guadagna invece World Duty Free, ma anche Mediobanca e Saipem. Il 2,30 è il rialzo di Exor, di Azimut e dell'Enel. Il 2,1 lo guadagna la Popolare di Milano e Atlantia. Di negativo c'è solo la Popolare Emilia Romagna, meno 0,80 come Telecom Italia. Generali perde mezzo punto percentuale, Monte dei Paschi meno 0,20. Il rublo invece è tornato a perdere terreno sull'euro e sul dollaro, è a quota quasi 66 sul dollaro, e il crollo del prezzo del greggio è una delle cause, ma insomma è a 73,7 con l'euro. Allora, vedo che qualcuno continua a dire: no, guardi che la recessione è solo italiana. Per favore, cioè, ci sono i dati complessivi che l'area euro, poi sia l'area che sta crescendo meno di tutte le aree geografiche. Non ho detto che tutti gli stati siano in recessione, la Germania non è in recessione, la Francia non è in recessione, ho detto solo che il rallentamento economico si è registrato nell'area euro, mentre tutte le altre aree, a partire dagli Stati Uniti, con politiche diverse, sono tornate ai livelli precedenti il 2008. Come va il nostro spread? È a 114 punti, quello greco è 828, era partito 840, il rendimento è 8,6% sul BTP a 10 anni greco, il nostro è a 114, il rendimento del nostro BTP a 10 anni è l'1,5%. Sulla Grecia, allora iniziamo ad avvicinarci al tema, anzi facciamo una cosa, prima tocco due temi italiani, poi iniziamo la lunga pagina greca. Per quello che riguarda i temi italiani, mentre il governatore di Banca d'Italia, nonché consigliere della Banca Centrale Europea, Ignazio Visco, difende la decisione della Banca Centrale e in un'intervista con il quotidiano tedesco Handelsblatt invita i tedeschi a considerare che la Banca Centrale Europea deve agire per conto dell'area euro nel suo insieme, non sulle esigenze di singoli paesi. Ho l'impressione, ha detto Visco, che in Germania non tutti abbiano compreso bene questa complessa decisione e l'obiettivo di arrivare a una stabilità dei prezzi attualmente lontana. Abbiamo il dovere quindi di intervenire con un programma che peraltro non prevede una fine prestabilita. Per quello che riguarda invece le notizie italiane, devo andare su due elementi. Il primo riguarda i permessi della legge 104, perché sono permessi importantissimi, sono quelli che permettono anche ai parenti di persone disabili di ottenere dei permessi dal lavoro e sono sacrosanti. Faccio solo notare che nel mondo statale uno su 10 prende i permessi con la legge 104, oltre 300.000 persone. Però la cosa che più mi interessa oggi ricordare è il tema lo scontro o botta e risposta tra la magistratura italiana e il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Allora, io dico tutto bene, però che cosa è successo? Sapete che nella proposta il decreto taglia arretrato nella giustizia ha portato dal sostanzialmente fino allo scorso anno c'è la sospensione feriale nei magistrati, il periodo estivo in cui sono congelate tutte le attività processuali. Fino allo scorso anno il periodo andava dal 1 agosto al 15 settembre. Poi il decreto taglia arretrato nella giustizia, anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione, ha ridotto questo periodo di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, con effetto già dal 2015, cioè 15 giorni in meno di ferie, diciamo tutta. Questo ha provocato reazioni da parte di varie componenti della magistratura, ma quella che fa più impressione è il procuratore generale presso la Corte d'Appello, Marcello Maddalena, il quale ha detto: Renzi vuol far crepare di fatica i magistrati come il maiale Napoleone della fattoria di Orwell. Allora, io dico una cosa, adesso sentiamo anche cosa gli ha risposto oggi da Giovanni Minoli, il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini. Però attenzione, perché entrare su questi temi, dire che 15 giorni in meno di ferie, come hanno tutti gli altri, cioè il mese, fa crepare di fatica i magistrati, ci obbliga poi, o ci obbligherebbe, andare a vedere quanto lavorano i magistrati, non i migliori, tutti. Come vengono organizzati gli uffici? Qual è l'autonomia nell'organizzare la tua giornata lavorativa che ha un magistrato? Se veramente la lentezza della giustizia è dovuta solo all'eccesso di norme e al nostro sistema giudiziario, o anche alla produttività dei magistrati stessi? Cioè, è molto rischioso, è un terreno molto scivoloso, anche perché dicono i magistrati, quei 15 giorni noi in realtà li utilizziamo spesso di lavoro per portarci avanti o smaltire il lavoro arretrato. Bene, ma se è così, a questo punto è molto più corretto che quei 15 giorni vi risultino lavorati. Cioè, se io avessi 15 giorni in più rispetto alla media degli altri contratti del settore privato e dicessi che a me quei giorni servono per portarmi, per finire il lavoro arretrato, beh, a rigor di logica farebbe bene un'azienda a dire: beh, a questo punto, visto che i lavori te li riconosco come lavorati, no? Fermo restando che nel mondo anglosassone, quando dici una cosa del genere, sei già uno fallito, perché chi non riesce a stare dentro e chi lavora oltre l'orario del lavoro è uno che non sa gestire e organizzare la sua attività. Ma non capisco veramente il quibus. Sentiamo Legnini sulla frase del procuratore generale presso la Corte d'Appello, Marcello Maddalena. La giudico sbagliata, perché questo tema delle ferie è stato enfatizzato. È noto che quei 15 giorni di ferie in più sono serviti, servono ai magistrati come agli avvocati. D'accordo, però. Per smaltire il lavoro pregresso, per completare gli adempimenti, per depositare le sentenze. Dopodiché il legislatore ha deciso, si può giudicare o meno giusta quella vabbè, decisione, però, insomma, ma il legislatore ha deciso. Certo. Quindi, continuare diciamo a parlare di ferie significa produrre una situazione di sviamento dai problemi veri della giustizia. Ecco, il Premier Renzi infatti ha commentato: accusarci di far crepare i magistrati per una settimana di ferie in meno o è un disegno o significa che i magistrati hanno perso il contatto con gli italiani che lavorano. Quindi la guerra è una guerra veramente alzo zero. Guardi, noi eviteremo che questa guerra continui a combattere. Vabbè, non la invidio. Non serve ai cittadini. Il Parlamento ha deciso che i giorni di ferie e devono essere effettivi sono 30. Ok. Punto e basta. Dopodiché è giusto che i magistrati criticano, vabbè. Bisogna rispettare quella norma. Allora, almeno il vicepresidente del Consiglio di Suprema Magistratura, appunto, sentivate nell'intervista questa mattina a Mix24 con Giovanni Minoli, ha detto, insomma, è sbagliato, dai, ma per favore, ma come si fa in questo periodo a dire che levare 15 giorni è un attacco alla magistratura, modello Orwell con la fattoria degli animali? Spiegatemi perché 15 giorni in più fossero necessari. La risposta che abbiamo avuto in questi giorni da chi rappresenta anche sindacalmente i magistrati è: attenzione, i magistrati spesso lavorano anche in quei giorni perché sono obbligati a smaltire il pregresso. Bene, adesso li vanno come giorni lavorati, è più corretto, è più trasparente, è più giusto. Perché devi lavorare quando sei in vacanza? Tanto se non riesci a goderli. Altrimenti, se li riesci a godere, io ti dico perché devi avere più giorni di un normale cittadino, visto che, mettiamola così, mediamente non lavori più di un normale cittadino, di un normale dipendente della pubblica amministrazione, eh? e per favore. Adesso non è che ogni volta che uno critica la magistratura o chiede lumi sulla produttività della magistratura è uno anti magistrati, anti giustizia, perché questo è il cul-de-sac in cui siamo finiti per la contrapposizione PD Forza Italia, diciamo, negli ultimi 15 anni. Si può anche criticare o aprire dei dubbi sull'efficienza e la produttività della magistratura senza essere contro la giustizia, senza essere, diciamo, contro i magistrati per il loro ruolo, eh? Ma dai. Allora, questo che sentite è un sirtacchi molto, molto lento, che prima o poi crescerà, chi dei tecnici magari di partire quando siamo già oltre. Andiamo alle prime reazioni. Allora, volete sentire... No, Renzi non ve lo faccio risentire sulla magistratura. Invece il ministro dell'economia italiano, Piercarlo Padoan, sulla Grecia. Io direi che da queste elezioni ci sono due importanti messaggi. Il primo è che in Europa bisogna creare più crescita e più lavoro, perché è un richiamo da parte degli elettori di un paese importante di cui ovviamente rispettiamo le scelte elettorali. Il secondo messaggio è che la soluzione a questi problemi deve essere una soluzione europea, cioè la dobbiamo trovare tutti assieme nel creare un equilibrio tra compatibilità finanziaria, crescita e lavoro, peraltro il tema che la presidenza italiana del semestre scorso aveva messo al centro dell'azienda e che sta avvenendo al centro dell'azienda. E la gente. Allora, io non ho mai detto che i greci sono truffatori e fancazzisti, ho detto una cosa diversa, che hanno delle enormi responsabilità per il modo in cui il PASOK è stato ben punito alle elezioni, ma insomma un sistema in cui, ricordo un po' un altro paese, in cui al privato non si facevano pagare le tasse e si accettavano soglie allucinanti di evasione fiscale e al dipendente pubblico si davano delle garanzie sconosciute nel resto d'Europa, compresa l'età della pensione. Abbiamo raccontato una volta tutti i permessi, erano pazzeschi, e le indennità di cui godevano i pubblici dipendenti greci. Quindi, e in aggiunta hanno pure troccato i conti. Quindi dico semplicemente che prima di dire «Ehi, vai Tsipras!», tutti per Tsipras, sperando che faccia il lavoro sporco, attenzione, non mi piace questo pendolo, no? Prima Tsipras è una minaccia, adesso un'opportunità, sarà una via di mezzo, e soprattutto i greci devono agli italiani 40 miliardi, quindi quando diciamo bene rinegozia il debito, ricordiamoci che il debito ce l'abbiamo noi, tutto qua. E comunque Juncker, il presidente della Commissione Europea, sulla Grecia ha detto: beh, è normale che la Commissione lavori con qualunque governo. Non siamo ancora in contatto con le autorità greche perché non sono ancora in funzione e lo saranno più tardi in giornata. Ma è norma comune e buonsenso comune che la Commissione lavori da vicino con qualunque governo. Ed è quello che faremo con la Grecia. Noi abbiamo delle regole che sono state stabilite di comune accordo con le autorità greche. Vedremo quali saranno le richieste del nuovo governo greco e ne discuteremo, come facciamo con tutti i governi, indipendentemente dalla sua composizione. La scelta degli elettori greci non dipende dalla responsabilità della Commissione europea. Ma la Commissione lavorerà con qualunque governo si insedi ad Atene. Non sono nervoso oltre misura. Je ne suis pas outre mesure nerveux. Vabbè, Juncker ci dà sempre queste letture che poi ti cambiano la vita, no? Che discorsi? È ovvio che la Commissione deve lavorare con qualunque governo democraticamente eletto. O Juncker? E mica scopriamo l'acqua calda qua. Non sono nervoso oltre misura, non so quale sia la misura del nervosismo di Juncker, non so che quale sia il benchmark per la misura del nervosismo. Andiamo avanti. Vittorio D'Aroldi in collegamento con noi da Atene, buonasera. Buonasera a voi. Devi tenere il ritmo del sirtacchi mentre parli, adesso sei sempre più dura. Allora, facciamo così, c'è il metro e la pubblicità, poi ci racconti come si è risvegliata Atene, ma anche soprattutto adesso le prossime mosse politiche. Tsipras ha firmato e ha fatto l'alleanza, vorrei capire appunto, qui c'è un'esultanza in Italia, dalla parte politica, su Tsipras, siamo tutti Tsipras, e vabbè. Vai Tsipras, armiamoci e partite, diciamo una volta, no, vai. Nella speranza di accodarsi a Tsipras, mamma mia. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Intanto La borsa ha chiuso più 1,15%. Scrive un ascoltatore: i conti greci li ha certificati Goldman Sachs, per cui semmai li ha truccati lei. Ah no, allora, la Grecia ha truccato i conti per entrare nell'euro, dopodiché che questi conti nessuno li abbia verificati è vero, che siano stati certificati è vero, ma possiamo anche aggiungere che in quel periodo lì i greci non puzzavano mica, nel senso che i francesi, i tedeschi prestavano, le banche tedesche, francesi prestavano decine di miliardi, noi molto meno devo dire, alla Grecia, parlo prima del 2011, e addirittura la Germania li vendeva i sommergibili, cioè nessuno aveva problemi a trattare con la Grecia, finché tanto poi paga lo Stato, no? Per cui bisogna ricordarsela tutta la storia, tutta. Comunque, Vittorio D'Arolde, ce la ricordiamo i sommergibili tedeschi, no? Adesso non è che siamo nati ieri. Come no? La ThyssenKrupp mandò appunto dei sommergibili che, tra parentesi, non funzionavano nemmeno molto bene, no. Quindi non mantenevano la rotta. E poi ci fu anche la però... Siemens coinvolta in accordi con la Grecia, adesso vado a memoria, però non vorrei dire cavolate su questo. Ci furono appunto delle grosse polemiche, perché poi sembra che insomma dovettero prima di accettare di arrivare gli aiuti, i poveri greci dovettero comprare questi sommergibili. Insomma, ci fu qualche sospetto che di pressioni abbastanza forti da parte della Germania, perché insomma prima si pagassero i sommergibili e poi arrivassero i crediti. Vabbè, ma adesso i poveri greci non mi stanno bene neanche come i cattivi tedeschi. Insomma, io cerco di mantenere i greci hanno una grossa responsabilità, come ce l'hanno gli italiani, per come è finito il loro paese, e poi si tratta di capire se la gestione di un'emergenza è stata corretta oppure è stata peggio, come dicono alcune parti, peggio il taccondo e il buso, peggio la gestione del danno iniziale, ok? E a mio avviso siamo in questa seconda fattispecie, cioè i greci già avevano compromesso ampiamente la loro non gestione dell'economia greca, poi la reazione europea a trazione tedesca ha peggiorato e siamo arrivati al fatto che a forza di umiliazioni ha vinto Tsipras. Io la sintetizzo un po' così. Vorrei sapere intanto gli ultimi sviluppi, Vittorio. Tsipras ha firmato, e anche il paese, e la reazione di oggi, diciamo, come si è svegliata la Grecia, come si dice in questi casi? Ma guarda, in questi casi devo dire che si è svegliata come al solito, nel senso, beh, che non ci sono state corse agli sportelli bancari o situazioni di allarme. La situazione era abbastanza tranquilla, la gente ha continuato a vivere una quotidianità normale. La vera novità è stato il fatto che in mattinata il leader Alexis Tsipras di Syriza ha dato questa notizia abbastanza inattesa, cioè un accordo con Panos Kamenos, che è la formazione di estrema destra, quindi questo ha completamente combussolato la visione della probabilità che era invece verso Toparmito, verso cioè partiti minori ma filo europei, e che quindi avrebbero moderato le aspettative di Syriza. Questo quindi è un elemento di inquietudine per i mercati, perché la miscela di Syriza e appunto i greci indipendenti viene vissuta dai mercati in maniera molto più inquietante, perché sono due formazioni, seppure una di sinistra e l'altra di estrema destra, di anti-memorandum, anti-europee, quindi è la formula peggiore che si potesse immaginare. Sì, e diciamo radicalizza ancora di più, no? L'intera, perlomeno, almeno sulla... Almeno in teoria va a radicalizzare ancora di più le posizioni di Tsipras. Che cosa ha detto Tsipras? Bah, sostanzialmente ha detto torna la speranza, è finita, questo è un voto contro l'austerità, chiudiamo il circolo vizioso dell'austerità, negozieremo una soluzione finanziaria giusta, vantaggiosa per tutte le parti, pronti a collaborare con l'Unione Europea per la crescita. Alcuni di voi mi chiedono: ma che cosa ha promesso Tsipras? Beh, tutto un insieme di cose, i quattro pilastri: fine della crisi umanitaria, della povertà, via la tassa sulla casa, esenzione del fisco fino a 12.000 euro, in cambio lotta agli evasori, 3 miliardi il primo anno, 20 miliardi in 7 anni, elettricità gratis e buoni pasto ai più poveri, trasporti gratuiti ai disoccupati cronici. Poi, per rivitalizzare l'economia, promesso taglio del debito pubblico, non solo degli interessi, impulso all'economia etica, largo ai giovani e da qui un piano biennale da 5 miliardi con fondi dell'Unione Europea e piccole e medie imprese per rilanciare l'occupazione. Ha proposto in campagna elettorale il salario minimo alzato da 450 a 750 euro, no ai licenziamenti facili di massa, ripristino della tredicesima che in Grecia è stata levata, sanità gratis ai disoccupati senza mutua. Infine, in riforma del sistema politico, un memorandum con la Troica da stracciare, cioè gli accordi fatti erano tutti rinegoziati, e va fatto un nuovo negoziato in una conferenza internazionale dei creditori. Senti, Vittorio, l'Europa è molto tranquilla, ma questo perché sotto sotto c'è l'aspetto... È solo apparente. Sì. Però... Sono molto preoccupati, tutto dagli sviluppi di queste ore, cioè questa unione con i greci indipendenti, che è una formazione populista, quindi molto anti-europea, nasce proprio come una scissione da neodemocrazia, il partito di governo, quando dovettero votare la fiducia al governo tecnico di Lucas Papademos, tra l'ex vicepresidente della Banca Centrale Europea, proprio per non votare l'austerity e quindi il memorandum che era agganciato ai crediti, questo partito si è appunto staccato dalla nuova democrazia, quindi è proprio un partito che non ha mai accettato la logica, anzi ha sempre parlato addirittura di complotto internazionale contro la Grecia, per tornare al discorso che facevi prima. Allora, ma al di là la storia della colpa dei greci. Senti, Vittorio, al di là degli ultimi giapponesi, penso a Weidmann, che ancora continua a dire no, deve rispettare gli accordi, ho capito, ma se questi hanno votato un'altra cosa, Weidmann, fai presidente della Bundesbank, veramente, ma solo della Bundesbank, perché già i danni ne avete fatti abbastanza. Ma detto questo, Vittorio, qua è tutto uno sperticarsi di lodi, Tsipras bene, adesso Tsipras farà il nostro lavoro. La speranza di molti, anche se non ammessa, è che poi Tsipras, una volta al governo, e adesso c'è, vada ad ammorbidire le sue posizioni. Conoscendolo, è probabile oppure no? Come è un grande pragmatico, è una persona quindi pronta a trovare le soluzioni non ideologiche, ed è molto flessibile, però resta sempre sull'obiettivo, quindi il suo obiettivo è quello di ridurre il peso del pagamento del debito, perché altrimenti non ha i soldi per pagare tutte quelle promesse che lui ha fatto. Allora, la tredicesima mensilità per le pensioni, se tu la concedi oggi e la tredicesima arriva appunto a dicembre e magari quella dell'anno prossimo, allora è un gioco anche finanziario, tu la prometti oggi a gennaio, certo, ma la dovrai dare solo appunto a dicembre o addirittura a dicembre 2016, perché la finanziaria magari te la devi mettere dopo. Ma questo è un discorso che lui deve trovare dei soldi entro breve, perché tutte le sue promesse costano almeno 10 miliardi, che non sono pochi, sono 11,4 miliardi che lui non ha, le casse non ci sono 11,4 miliardi, in più deve trovare 10 miliardi perché a luglio, tra marzo e luglio, ha delle scadenze di bond da pagare. Allora il gioco è una partita a scacchi molto complicata, lui deve trovare dei soldi per dare per accontentare tutto un elettorato che non era di sinistra, non era della sua posizione politica, ma che lo ha scelto perché lui prometteva di modificare e di dare una nuova qualità e una nuova speranza o un futuro comunque a queste persone che, ricordiamolo, il 50% dei giovani greci sono disoccupati. Ma deve trovare anche però immediatamente un finanziamento per queste cose. Ed è tutta una questione molto strana, perché in questo momento i greci non stanno pagando più le tasse, quindi non stanno entrando più neanche i soldi che prima entravano, quindi è una situazione molto delicata. Perché non stanno pagando più le tasse? Perché in qualche modo sperano che Syriza non faccia più pagare le tasse ad esempio sulle case, quindi l'incasso delle imposte sulle case non stanno più entrando. E questo è l'effetto annuncio. A chi mi chiede ma come fa a non pagare? No, in realtà in questi casi, ammesso e non concesso che si arrivi a un accordo con l'Europa, è più facile una rinegoziazione in termini temporali, cioè dici guarda, ti dovevo questi soldi, entro 10 anni te li darò fra 20-30. Il debito si può rinegoziare in due modi: o lo riduci come valore nominale, dice il milione o i miliardi che ti devo diventano la metà, oppure allunghi la scadenza, no? Per cui ne hai un vantaggio sugli interessi e rinegozi chiaramente gli interessi da pagare. Staremo a vedere, ma mi sembra ancora molto prematuro tutto questo. Grazie intanto a Vittorio D'Aroldo in collegamento con noi da Atene. Adesso il traffico, poi la borsa e poi il fronte europeo. Dunque, c'è qualcuno che mi scrive sul tema dei magistrati. Non è accettabile che le ferie siano considerate il problema numero uno per l'efficienza della giustizia in Italia da parte di governi che non riescono a fare una qualunque modifica delle norme in grado di migliorare davvero l'efficienza. Non le sembra un populismo di basso livello? Sì, mi sembra un populismo di basso livello dire che il problema delle ferie, che il problema della magistratura siano le ferie, perché devi fare la riforma della giustizia civile e rompere il fronte della lobby degli avvocati e non solo in Parlamento. Perché poi chi ci guadagna della giustizia lunga, lo sappiamo, sono anche gli avvocati, con buona pace dell'ordine che adesso mi scriverà. Vabbè. Però trovo inaccettabile che si dica che quello è il problema della giustizia, ma trovo anche inaccettabile che i magistrati si ribellino a questo come un attacco alla magistratura, cane da macello. Ma dai, ma per favore. Su. Allora, ma perché c'è uno che mi scrive morto di fame, solo tu pensi ai soldi, nemmeno la Germania ha pensato ai soldi, tu sai cosa deve l'Italia alla Germania? Solo il sole 24 ore ti sopporta, boh, forse neanche quello. Però perché è morto di fame? Adesso capisco tutto, cioè lei dice anche noi abbiamo... Ho capito, infatti la Germania ha prestato i soldi all'Italia come tanti altri investitori, ma l'Italia non sta rinegoziando il debito e nessuno in Germania esulta o esulterebbe se qui vincesse qualcuno che vuole rinegoziare il debito con la Germania. Mi sono solo chiesto, ma tutti i politici che da ieri esultano per Tsipras sanno che la Grecia ci deve 40 miliardi e li deve a tutti gli italiani, sono circa 400 euro a testa? Chiedo. Allora, l'altra grande bufala, o meglio ipocrisia di oggi, riguarda il mondo dei media, e qui facciamo autocritica tutti, non tutti, chi più chi meno. Allora, intanto faccio un annuncio, che domani, molti mi stanno chiedendo della Grecia, adesso non possiamo dare tutte le risposte, ma domani il Sole 24 Ore esce con 8 pagine di cronaca e approfondimenti con l'effetto che è previsto nel medio e lungo termine sui mercati, l'impatto sui conti dell'Italia, la bussola per i risparmiatori. Insomma, quindi si analizzeranno i vari aspetti anche degli sviluppi del voto greco sul fronte Bruxelles, sul fronte Francoforte e sul fronte chiaramente Grecia. No, dicevo che molti analisti ripresi da alcuni media avevano previsto, ecco, la reazione dei mercati. La reazione dei mercati non c'è stata, basta con ste balle, o meglio, c'è stata a New York, nel senso che l'unica borsa negativa è Wall Street, meno 0,08%. Non penso che, nonostante la forte comunità greca negli Stati Uniti, sia dovuta all'elezione di Tsipras. Da noi, o meglio, nell'area euro non gliene è fregato niente. Milano più 1,15, Parigi più 0,70. Francoforte più 1,40, perfino Londra che fuori dall'euro più 0,30%, cioè è più Draghix che Tsipras, è l'effetto del quantitative easing a cui guardano i mercati, per cui effetto greco non c'è stato, l'euro non è tracollato, inutile raccontare balle, è a 1,1280, continua una lenta e molti ritengono, non dico inesorabile, ma lunga discesa, ma senza tracolli. E chi li ha visti i tracolli? Quindi basta con queste cose, vedrete i mercati. Paolo Paronetto, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dai, diciamo che l'effetto Tsipras non c'è stato, si può dire sta cosa? Sì, sicuramente dire. Dopo un inizio un po' incerto con oscillazione, le borse diciamo che si sono concentrate più sull'indice tedesco IFO, migliore delle attese, e hanno inanellato per quanto riguarda Milano l'ottava seduta di rialzo consecutivo. Il tema principale rimane, come dicevi tu, il quantitative easing della BCE che sostiene i mercati. Certo, gli investitori attendono di capire quali saranno le conseguenze concrete del voto greco sugli accordi con la Troica, ma al momento nessun effetto Tsipras, nessun timore di Tsipras che affonda le borse. Allora, c'è uno che chiede liberalizziamo anche la professione del giornalista, ma senta, ma noi siamo già sul mercato, mi possono licenziare quando vogliono. Allora andiamo avanti, nessun effetto Tsipras, l'abbiamo detto bene oggi il lusso, Jux più 4,33, noi lo inseriamo un po' forzatamente nel lusso, però Tod's che ci sta a pieno titolo più 4,20%, ancora World Duty Free più 2,55%, Ferragamo più 2,15%. Sì, per quanto riguarda il lusso il tema è quello del rafforzamento del dollaro, naturalmente sono società che fatturano molto in dollari, quindi beneficiano di questo andamento valutario. Ricordiamo che oggi l'euro ha chiuso in rialzo alla fine sul dollaro dopo aver toccato in avvio un nuovo minimo da 11 anni, quindi comunque una situazione che premia questi titoli. Lo stesso discorso si può fare tra l'altro per Fiat Chrysler, anticipo questo tema, che è andata molto bene anche oggi, ha fatto più 3,74%, ricordiamo che gli analisti stimano che il 58% dei ricavi e il 60% dell'EBIT di Fiat Chrysler sia fatto in Nord America, quindi in dollari, e quindi naturalmente l'effetto cambio spinge anche il titolo Fiat a piazza affari. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, stavamo concludendo l'approfondimento di borsa con Paolo Paronetto. Al di là del lusso, oggi tiepide le popolari, ma devo dire che il Banco Popolare guadagna l'1,20%. Sul fronte bancario segnalo anche la Pop di Milano più 2,20%. Invece debole la Pop Emilia Romagna meno 1%, Ubibanca guadagna lo 0,16%, sulle non popolari Intesa guadagna lo 0,60%, Unicredit lo 0,30%, il Monte dei Paschi invariato. Paolo? Sì, le popolari, quelli che hai segnalato tu, sono le eccezioni che si sono verificate soprattutto sul finale, per gran parte della seduta sono state o in calo o comunque poco mosse, naturalmente vengono da una settimana invece brillantissima dopo il varo del decreto banche che di fatto impone alle prime 10 popolari di trasformarsi in SPA entro 18 mesi, e quindi quelle di oggi si tratta in particolare innanzitutto di realizzi dopo la corsa della settimana scorsa. E poi iniziano a diffondersi anche un po' di timore sul fatto che in occasione della conversione parlamentare del decreto potrebbero essere introdotte cambiamenti alla riforma che potrebbero quindi annacquare un po' la portata del provvedimento. Asso Popolare, che l'associazione di categoria ha già promesso battaglia, quindi il mercato adesso aspetta di vedere come andrà il percorso parlamentare, certo, del decreto. Allora, altri titoli invece oggi in evidenza, abbiamo detto infatti del lusso e del fondo KKR per World Duty Free, Unipolsai, alla fin fine l'assemblea ordinaria deve discutere la conversione delle azioni straordinarie, no? Sì, l'assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la conversione, esatto, del risparmio, e che quindi ovviamente un segnale positivo verso la semplificazione della struttura del capitale. Il titolo quindi ha guadagnato il 2%, domani ci saranno le assemblee speciali degli azionisti, sì, e di risparmio, che devono confermare, ma diciamo che l'amministratore delegato Cimbri si è mostrato fiducioso e ha anche detto che nel caso l'assemblea degli azionisti di risparmio A, che è quella un po' più incerta, dovesse bocciare la conversione, di fatto per la società non cambierebbe niente, perché l'impatto sarebbe molto limitato. Allora, migliori e peggiori: Banca Profilo più 13%, Banca Finnat più 12,5%, Italmobiliare più 12%, Mutui Inline più 8,80%, TAS più 8,60%, fronte opposto invece i grandi viaggi meno 9,80%, Visibilia meno 7,30%, e Gabetti meno 3,90%. L'euro è in questo momento a 1,1283. Quindi poco mosso, ma noi restiamo sul tema dell'impatto o non impatto, non reazione oggi dei mercati, ma possibile impatto nel medio termine delle elezioni greche. Quindi riapriamo la pagina greca, ma per parlare, non aspettate mai in regia, allora adesso lo dico proprio, ma per parlare della reazione nel medio termine sui mercati da un lato e dell'altro della reazione europea. Allora, fermo restando che oggi non c'è stata reazione, le borse sono tutte positive, ringrazio per averci raggiunto il collegamento Fabio Foyce, che è Southern European Economist presso Barclays Capital a Londra. Buonasera, dottor Foyce. Buonasera, buonasera a voi. E ringrazio anche, adesso fra poco arriverà l'editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei, Adriana Ceretelli, che ci sta raggiungendo in collegamento. Allora, Foyce, sorpreso del fatto che non ci sia stata oggi nessuna reazione né di borsa né tantomeno dell'euro, ma neanche sugli spread, quello italiano è sceso a 114 punti? Beh, insomma, un passo alla volta, qualche reazione l'abbiamo avuta, perché comunque il titolo greco ha fatto 50 basis point sui 5 anni, 83 basis point credo sui 10 anni, quindi al momento la cosa è rimasta una questione greca, tra la Grecia e l'Europa. Mm-hmm. La periferia al momento ha tenuto, l'euro anche. Credo che il fatto che Tsipras abbia trovato questo accordo lampo con l'estrema destra, probabilmente ha aiutato a calmare i mercati nel primo momento. Però i mercati sicuramente vorranno vedere anche che cosa poi questo accordo produrrà in termini di riforme, di accordi con la Troica, se ce ne saranno alcuni, prima di decidere di prendere magari una posizione più forte. Ecco, i suoi colleghi oscillano verso un cauto, cautissimo, diciamo, ottimismo. Gli analisti di Credit Suisse, colleghi concorrenti, gli analisti di Credit Suisse dicono sostanzialmente la vittoria di Tsipras è neutrale rispetto alle attese prima delle elezioni, non ci sono rischi di contagio. Gli analisti di UBS invece dicono saranno difficili i negoziati con i creditori nei prossimi mesi, tuttavia un accordo nell'interesse della Grecia e quindi si arriverà a un accordo entro l'estate. Lei è di questa opinione? Se la domanda è se credo che ci sarà un accordo entro l'estate, non ne sono così sicuro. Nel senso che non è detto che Tsipras sia in grado di fare un accordo con la Troica per come la Troica è composta, quindi Fondo Monetario, BCE e Commissione Europea. Più avanti io credo che un po' di volatilità potremmo vederla e potenzialmente potrebbe anche riguardare la Spagna, visto che anche la Spagna quest'anno va incontro ad elezioni e il partito Podemos sta andando molto forte, quantomeno nei poll. Senta, ma voi come Barclays, e quindi mi interessava anche sull'attività normale, vi state preparando un'ipotesi A, un'ipotesi B? Cioè l'ipotesi A è quello che ho capito, che dice lei, che dicono anche quelli i suoi colleghi di Credit Suisse e di UBS, sì, saranno momenti un po' difficili, ma si arriverà a un accordo. Ma avete anche un'ipotesi B? Ma io credo che l'ipotesi B forse ce la dovrebbero avere più che altro ad Atene e a Francoforte o a Bruxelles. Al momento credo che la view centrale sia quella che le dicevo prima, cioè valutiamo la cosa passo per passo, vediamo se il governo Tsipras è in grado di raggiungere degli accordi soddisfacenti con la Troica o con chi andrà a negoziare, poi vedremo come i mercati reagiranno. Ma secondo lei nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, peserà più in senso positivo quanto deciso da Draghi la settimana scorsa, quindi quantitative easing, o in senso negativo la vittoria di Tsipras? Io credo che la vittoria di Tsipras peserà in senso negativo su tutto ciò che è Greek related, quindi gli stock tutto ciò che ha a che fare con la Grecia. Esattamente, scusi, con la Grecia e tutto ciò che ha a che fare col mondo dei sovereign bond greci. Io penso che invece le decisioni prese da Draghi e dalla BCE continueranno a supportare la periferia e continueranno a tenere l'euro basso, così come poi la Banca Centrale Europea voleva. Quindi euro basso e anche spread basso, se ho ben capito. Esattamente. Allora, quindi insomma, anche lei tutto sommato è molto attendista, cioè passo per passo, non avete, abbiamo letto nei giorni scorsi, attenzione se vince Tsipras, la Grecia rischia, mi sembra tutti quanti molto coi nervi saldi, o no? Ma credo che chi come me e anche i miei colleghi, immagino che stiamo seguendo la periferia negli ultimi anni, sanno che non ci sono grandi decisioni da prendere molto in fretta, bisogna valutare le cose passo dopo passo, perché veramente quando si cominciano a mischiare questioni economiche, questioni politiche, è difficile prendere una view. Io credo sia importante però valutare alcune cose. La prima, ad esempio, è che i dati fiscali in Grecia intorno alla fine dell'anno scorso non sono stati un granché, quindi questo non aiuta ed anche in un certo senso meno vigore al governo greco, che può certamente far conto su di un primary surplus minore. Mm. Questo in termini di negoziazione sul debito gli dà chiaramente meno leva con i propri creditori internazionali. E quindi lei dice sì, passo per passo, è vero che i dati fiscali, cioè quei dati di bilancio greci non sono andati così bene e adesso lo ricorderemo. Devo dire che insomma sì, vedo molti messaggi sul tema, c'era stato un po' di allarmismo, forse anche controproducente prima delle elezioni, ma tant'è. Grazie allora al dottor Fabio Fois in collegamento con noi dalla sede di Londra di Barclays Capital, dove è responsabile. Mi dica una cosa, Fois, ma lei quando parla di paesi periferici, ci chiama periferici perché siamo al confine dell'area euro e quindi vale anche per la Finlandia, o ci chiama periferici perché contiamo poco? No, periferici solamente perché se lei ci pensa sono un pochino tutti nella periferia, no? Lei faccia, io non vabbè, Portogallo. Sì, dico, ma vale anche per la Finlandia, può essere periferica, anche quasi la Danimarca è periferica, di centrale c'è solo la Francia e la Germania a sto punto, no? Se vanno sotto pressione saranno anche loro inclusi, poco ma sicuro. Ah, quindi periferico è un giudizio, non è un dato geografico, avevo capito bene. Grazie al dottor Fois. Allora, dall'Italia periferica, intesa come attributo e non come elemento geografico, alla centralissima Bruxelles, dove è in collegamento con noi l'editorialista del Sole 24 Ore, Adriana Ceretelli. Adriana, buonasera. Buonasera. Beata te che non sei periferica. Allora, e se fosse Atene a salvare l'euro? Questo l'articolo, così anticipo ogni obiezione di Adriana Ceretelli, pubblicato sul Sole 24 Ore, vedi che t'ho fregato sto giro, e se fosse Atene a salvare l'euro, sostiene una cosa giustissima a mio avviso, non perché sia una collega. Il grande elettore di Syriza, di Tsipras, cioè chi ha votato, chi ha dato la più grande mano a Tsipras, si chiama Europa. E questo dovrebbero capirlo anche in Germania, perché non è sempre con le maniere forti che ottieni tutto nella vita, anzi rischi di avere effetti boomerang. Tu nel commento sul Sole 24 Ore fai notare che la Grecia da un lato rappresenta il 2% del PIL europeo e il 3% del debito europeo, quindi è periferica in questo senso, sì, cioè è marginale, però è diventata il paradigma di come si gestisce o non si gestisce la tenuta dei paesi dell'area, la tenuta dell'euro nel suo complesso. Ora, cito i tuoi dati, in 5 anni di cura della Troica, no, perché i greci hanno le loro colpe, le abbiamo ricordate all'inizio del programma, però la Grecia ha perso il 25% del suo PIL, cioè un quarto del PIL, ha visto salire i disoccupati al 25% e i giovani al 55%, sono scappate dal paese 150.000 persone, la cosiddetta fuga dei cervelli, e il debito che doveva scendere è schizzato dal 125% al 180%. Ora, voi vi chiedete perché ha vinto Tsipras? Beh, questi dati te la spiegano lunga. Non è migliorato praticamente quasi nulla e quel poco di miglioramento che ha la Grecia nei conti pubblici lo utilizza per pagare gli interessi sul debito. Vorrei capire a questo punto cosa vuol dire che Atene può salvare l'euro. Allora, calispera Adriana Ceretelli, spiegaci per favore perché Atene potrebbe salvare l'euro, perché così chiudiamo sui paradossi, prego. Semplicemente perché diciamo lo shock della vittoria di Tsipras e del suo Syriza e il fatto che sia stata liquidata l'intera classe dirigente greca è un qualche cosa che non può non scioccare i governi europei, perché quest'anno nell'Eurozona ci saranno 7 elezioni, perché Podemos, l'altro partito antisistema, è diventato il primo partito, quindi anche la Spagna rischia di cadere. E poi perché la politica di rigore di fatto non ha funzionato in Grecia, dove certo c'è un qualche minimo miglioramento, insomma nella sostanza la gente sta male come prima, cioè questo miglioramento non è un miglioramento che la gente ha sentito, e perché al di là della Grecia queste politiche si sono dimostrate delle politiche depressive per la crescita europea, tant'è vero che ci chiamano ormai l'economia dell'1% nel mondo, tutti più o meno hanno ripreso, a cominciare dagli Stati Uniti che vanno alla grande, e noi siamo sempre piuttosto catatonici. Quindi io trovo che la Grecia potrebbe dare la sveglia concreta all'Europa democratica, che fino a prova contraria dei responsi elettorali si occupa ed è molto sensibile dei loro verdetti, e che quindi questo faccia un po' riflettere tutto. D'altra parte, i primi segnali di questa, come dire, svolta, sia pure cauta, ci sono già stati. Cioè, però, nuova... Adriana, però io diciamo in apertura del programma che quasi quasi c'è la sensazione che molti leader europei, parlo dell'Italia in questo caso, abbiano esultato la vittoria di Tsipras. Da un lato perché vabbè, adesso tutti cipriani siamo, si può dire cipriani, boh, ma anche perché ci sia l'idea che forse Tsipras farà il lavoro sporco che Hollande, né Sarkozy, né Monti, né Letta e anche Renzi sono riusciti a fare con Bruxelles, cioè tutti dietro Tsipras per dire vedete, se no salta il piatto, non esiste una Grexit, un'uscita della Grecia dall'euro, perlomeno non nei trattati. Bisogna trovare un nuovo modo per stare assieme e usando come leva, come piede di porco, Tsipras, no? Beh, se questa è l'impressione, è un'impressione totalmente sbagliata, nel senso che certamente si darà una mano alla Grecia, ma non la si darà, diciamo, come un'apertura di credito al buio. Già in queste ore i ministri dell'Eurogruppo, Draghi stesso che è qui a Bruxelles, i presidenti della Commissione e del Consiglio hanno detto chiaro e tondo che una mano alla Grecia sono tutti disposti a darla, però dentro nell'ambito degli impegni che la Grecia ha assunto. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che ristrutturazione del debito non ci sarà, ci sarà però un allungamento dei tempi, una diminuzione dei tassi di interesse, che è una ristrutturazione, perché non c'è ombra di dubbio. Lo puoi chiamare in tutti i modi, ma se io ho un debito a 10 anni, lo allungo a 20, certo, me l'ha ristrutturato, dai. Ovvio, certo, però non è quello che voleva Tsipras. No, non è così brutta, cioè, da vedere. La famosa conferenza che avrebbe dovuto includere, tra l'altro, non solo la Grecia, ma un po' tutti i paesi super esposti con il debito. Quindi è una soluzione, diciamo, dall'impatto limitato a un solo paese. Poi dopodiché, per esempio, sembra chiaro, perché siamo alle prime ore del dopovoto, quindi è difficile saltare le conclusioni, ma sembra che sull'austerità in senso stretto non si negozierà, ma sui modi di applicare l'impegno si potrà magari spostare da una rubrica a un'altra gli sforzi da fare secondo le priorità del governo Tsipras. Certo che... E in questo modo si potrebbe dare a Tsipras la possibilità di difendere davanti ai greci la sua linea. No, certo che l'Europa, o meglio la Commissione Europea e la Troica sono una bella vicolo cieco, perché se tu fai quello che ragionevolmente è presumibile che potranno fare, cioè non vai a cedere però rimoduli così, di fatto Tsipras ne esce come un vincitore, cioè dimostra che andare a Bruxelles alzando la voce qualcosa lo ottieni. Mi chiedo poi che effetto contagio politicamente parlando possa avere in Europa, perché allora tu dico, beh, se Tsipras ce l'ha fatta e come pesa per il 2%, forse ce la possiamo fare anche noi, che è l'altro aspetto. Ma questa calma quindi apparente che oggi trapelava da Bruxelles Juncker, che dice no, ma dialogheremo con tutti i governi, è solo apparente come calma? Ma no, secondo me è semplicemente l'approccio europeo, voglio dire, le comunicazioni sulla flessibilità che sono state fatte, che hanno in sostanza già evitato a Francia e Italia gli esami di riparazione a marzo, erano già un chiarissimo segnale in questo senso. La Grecia rientrerà in questo scenario e si cercherà di risolvere i suoi problemi limitando al massimo gli effetti di contagio e quindi confezionando una, come dire, una soluzione che però non possa far dire agli altri però siccome a loro avete diminuito adesso tocca a noi, il programma adesso tocca a noi, anche perché alla Grecia sono già stati diminuiti i tempi di restituzione del debito e i tassi di interesse, quindi sarebbe una continuazione della politica, sono stati diminuiti anche all'Irlanda, al Portogallo, voglio dire, è un processo che continua e magari si accelera di fronte a una a una vittoria netta, che non può essere ignorata. Vabbè. Cioè non può, allora, essere ignorata. Io ho un consiglio per, invece, modestissimo, per il cancelliere tedesco Angela Merkel: faccia stare zitto Weidmann, il presidente della Bundesbank, perché ogni volta che parla, parte non è neanche il suo ruolo. Secondo me Tsipras, Podemos aumentano i voti a dismisura quando Weidmann dice no, bisogna rispettare tutto, tac. Che se non l'avete ancora capito che parte di queste dichiarazioni hanno contribuito alla vittoria di Tsipras, non so più cosa dire. Weidmann si occupi delle banche e delle casse di risparmio, soprattutto del territorio tedesche, che c'è da lavorare anche lì. Grazie Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. E se fosse Atene a salvare l'euro, l'articolo oggi su Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni, Calispera e Calinicta, fra un po' ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.